In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla di finanziarizzazione della casa e lo fa con Stefano Portelli, ricercatore affiliato all'Università di Leicester, e Francesco Floris, giornalista. In questi ultimi anni si è visto chiaramente come, parlo come ricercatore, negli studi urbani siamo passati da un'epoca di, diciamo, di esplosione dei lavori e degli studi internazionali sulla gentrificazione, diciamo un'azione comune di trasformazione delle città, di svuotamento dei quartieri popolari e sostituzione con attività commerciali o con residenziale per classi più alte, eccetera, eccetera. E questo è appunto il processo di gentrificazione. Ultimamente, diciamo, in questi ultimi 5, 6, 7 anni, sempre di più sta avvenendo, messo in luce come il processo di gentrificazione faccia parte di un processo economico più ampio a cui si è dato questo nome di finanziarizzazione. Una serie di meccanismi molto complessi e molto sottili, molto invisibili, che stavano trasformando, diciamo, in modo definitivo la casa in un bene di investimento, no? Dal secondo dopoguerra fino circa alla crisi del 2008, il mercato immobiliare milanese è stato nelle mani di una manciata di nomi, quasi sempre gli stessi. Parliamo di personaggi come Gabetti, Bonomi, Cabassi e Ligresti. Queste famiglie scommettevano sul successo dell'operazione immobiliare con obiettivo di rientro a breve termine, mentre le banche agivano da finanziatrici. Era un sistema remunerativo, ma a suo modo instabile, perché ogni successo immobiliare rischiava di spalancare le porte del fallimento. Con l'evoluzione del sistema bancario e la conseguente liberalizzazione del mercato del credito, il panorama è cambiato. Sullo scenario immobiliare sono entrati nuovi attori, i fondi immobiliari, soggetti che operano a livello globale e hanno una capacità di investimento praticamente illimitata. Sono in grado di cimentarsi in progetti di grandissime dimensioni, come abbiamo visto in questi anni a Porta Nuova o City Life, e possono lavorare su orizzonti temporali molto più lunghi. Questo significa, ad esempio, che non hanno alcuna fretta di liberarsi subito dall'invenduto. Gli immobili che non si vendono, infatti, si trasformano in asset finanziari da valorizzare nei bilanci, o meglio ancora, da utilizzare come volano per nuovi investimenti. Ovviamente questo modello non alimenta solo i grandi progetti, come le torri o le case di lusso, ma ha ricadute sull'intero mercato immobiliare cittadino, contribuendo a tenere alti i prezzi anche in momenti di forte crisi. Se uno va a leggere i report che stanno pubblicando negli ultimi mesi, sostanzialmente, diciamo, dall'inizio della pandemia in poi, oppure banalmente se guardate al luogo dove di fatto si incrocia la domanda con l'offerta immobiliare, che poi oggi sono sostanzialmente i siti come immobiliare.it, Idealista, eccetera, c'è una tendenza a dire dall'inizio della pandemia sostanzialmente il mercato immobiliare milanese reggerà. Che è una cosa abbastanza curiosa se ci pensate, perché un paese che fa il meno 10, meno 12% del prodotto interno lordo in un anno di fronte alla peggiore recessione dai tempi della seconda guerra mondiale, tutto quello che ci siamo sentiti dire, è difficile, come dire, che un comparto, a meno che non sia perfettamente cruciale per quel tipo di crisi, come potrebbero essere alcuni comparti, per esempio della farmaceutica o della sanità nel corso del 2020, dell'anno che stiamo vivendo, regga completamente alla crisi. Un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, ho letto un report per l'appunto di Idealista, che di recente è stato acquistato tra l'altro da un fondo di investimento, quindi si sposta dalla propria attività originaria per diventare anche qualcosa di più del singolo luogo dove si incrocia appunto domanda e offerta di alloggi sulle città. Questo report di Idealista sosteneva che i valori immobiliari fossero cresciuti in alcune in percentuali, in alcuni casi addirittura di cifre spropositate, ricordo un più 57% per esempio fuori dalla circonvallazione in un quartiere di Milano. Poi se uno andava a leggere la nota metodologica con cui era stato costruito questo studio, che era allegata in PDF ovviamente al report, leggeva che per esempio erano stati scartati dall'indagine tutti gli immobili che da X tempo non vengono venduti sul mercato, che è una cosa che per un'analisi di mercato può anche avere un senso effettivamente, perché tu dici quel prodotto è obsoleto, tratti la casa come un prodotto e in quel caso è obsoleto. Però ovviamente da un altro punto di vista, che può essere quello per esempio della povertà abitativa, può essere quello della gestione del territorio o del punto di vista urbanistico sulla città di Milano, questa cosa non significa assolutamente nulla, perché non è che quelle case si sono autodemolite e polverizzate semplicemente perché da 6 mesi non vengono vendute. A che cosa può servire questo? Beh, banalmente può servire a tenere alta l'attenzione degli investitori istituzionali, ma anche quelli non istituzionali, internazionali ma anche domestici, su un determinato segmento nel momento in cui si assiste a una recessione pesante e in cui si sa che ci saranno delle conseguenze economiche. Si pensava che la crisi pandemica facesse crollare, o almeno abbassare, i prezzi già stellari del mercato immobiliare milanese. Ma facendo un confronto fra febbraio 2020, il mese prima della pandemia, e febbraio 2021, i valori medi del prezzo al metro quadro in città sono praticamente rimasti invariati. Si è registrato un abbassamento di qualche punto percentuale nel mercato degli affitti, dovuto soprattutto alla crisi degli affitti brevi e all'esodo di studenti e lavoratori fuori sede. Una flessione molto contenuta se paragonata a quello che è successo in altri settori, ma ciò che i dati generali dimenticano di dire è che le perdite di valore non si sono distribuite in modo equo. Con la pandemia cosa è successo? Un'infinità di famiglie, di piccoli proprietari, di inquilini che sono rimasti senza disponibilità economica, senza la possibilità di pagare gli affitti, di pagare i mutui e si sono ritrovati costretti o a vendere o sono falliti o falliranno. Tutto un processo di indebitamento generalizzato. Una volta che c'è questa domanda, quando c'è un'offerta di capitale, per cui delle corporazioni che invece durante il Covid, proprio durante l'anno della crisi del Covid, sono diventate enormemente più potenti e più ricche, è chiaro che la domanda risponde all'offerta, no? Questi beni, no, che ci immaginavamo che sarebbero tornati a disposizione della cittadinanza, stanno finendo nelle peggiori mani in cui potevano finire, con la complicità assoluta delle istituzioni pubbliche. Cioè, il movimento è partito dallo Stato. Lo possiamo vedere nel livello più alto, che è il processo di privatizzazione del mercato immobiliare, diciamo di liberalizzazione del mercato immobiliare e di privatizzazione dei beni degli enti pubblici, no? Che viene proprio dagli anni 90. Sulle prime arrivano i primi piccoli speculatori, i primi proprietari, poi gli speculatori, piano piano, quanto più si apre, ma proprio la dinamica del capitale funziona prima per competizione e poi alla fine finisce in monopolio. Il secondo livello è quello dell'Unione Europea, ad esempio, che continua a affermare il diritto alla casa e poi in realtà regala miliardi, ad esempio alla Sareb, che è questa bad bank spagnola che ha fatto in modo di far arrivare migliaia di case diciamo di piccoli proprietari nelle mani dei grandi fondi. Beh, se vogliamo fare un po' di nomi a titolo di esempio, io direi per esempio Heinz, per chi non la conosce, multinazionale del settore immobiliare americana, super presente sul mercato di Milano, è quella che ha realizzato inizialmente il quartiere di Porta Nuova, ha infatti chiuso una serie di operazioni interessanti su Milano nel corso del 2020, quindi mentre diciamo i topi fuggivano dalla nave, ha chiuso l'operazione sull'extrotto da un punto di vista finanziario, quindi l'extrotto del quartiere San Siro, una parte di quei terreni verrà edificata da Heinz insieme a Bain Capital, una parte da AXA, quindi un colosso delle assicurazioni. Temporaneamente nello stesso 2020 ha trovato un mezzo miliardo di euro per investire su Milano VI, il grande progetto che conoscete della città della salute a Terzo San Giovanni e del distretto multifunzionale. Tutto ciò che sta accadendo attorno a Scalo Romana è estremamente interessante, al di là della partita Scalo Romana in sé, che ha anche, come dire, una regia pubblica, perché quello è il luogo che in qualche modo sarà l'epicentro delle Olimpiadi Veneto Milanesi nel 2026, delle Olimpiadi Invernali, perché ospiterà il villaggio degli atleti, ma attorno ci sono diversi investitori, BNP Paribas, per citare una grande banca internazionale, Abitare Inc., che è una società immobiliare quotata. Poi te ne farei uno sinceramente sulla questione invece affitti brevi e locazioni brevi, perché è vero che quel comparto lì ha sofferto ovviamente al limite, diciamo, della perdita totale di fatturato, soprattutto durante il 2020, però non è vero che tutti hanno sofferto alla stessa maniera. Ci sono operatori, per esempio The Best Rent, che ha arricchito il proprio patrimonio che poi viene dato in locazione breve sulla città di Milano nel corso della pandemia, mangiandosi altri operatori o singole persone che magari avevano una seconda o una terza casa affittata in questa maniera, che non riuscivano a reggere, diciamo, alla crisi turistica e alla crisi dell'afflusso di persone nella città di Milano. Quindi c'è, come dire, anche in quel settore lì una tendenza, per esempio, all'accentramento dal punto di vista dei capitali. Gli operatori si finanziano a tassi bassissimi, per l'appunto, diciamo, è quasi una tautologia, e quindi tutta una serie di operazioni che in passato potevano essere considerate poco redditizie e quindi poco appetitose, e quindi perché svilupparle visto che non ci sono rendimenti, improvvisamente lo diventano. È il fenomeno che ha caratterizzato la finanziarizzazione dell'affitto, cioè l'affitto in Italia o era pubblico sostanzialmente attraverso le case popolari, oppure attraverso qualcosa di ibrido fra il pubblico e il privato, come possono essere gli enti previdenziali per esempio, oppure era privato ma estremamente frammentato, cioè la famiglia del ceto medio che ha due o tre case e le due restanti o una restante la mette in affitto. Invece oggi noi assistiamo a una cosa diversa, stanno arrivando i grandi operatori immobiliari sul mondo dell'affitto, esattamente come stanno arrivando su altri segmenti, come quello per esempio che loro chiamano student housing, che di fatto sono le residenze universitarie, in passato lasciate soltanto di fatto alla mercé dello Stato, del pubblico, e proprio per questo motivo probabilmente nemmeno realizzate. Un esempio di ciò che dice Floris è lo sbarco a Milano del progetto City Pop, un complesso di micro appartamenti full optional affittati per soggiorni brevi, dalle 4 settimane all'anno, per un costo che dovrebbe partire dagli 800 euro al mese a salire. Si tratta di un'operazione che cerca di intercettare la cosiddetta fascia dei city users, professionisti, studenti facoltosi, ma anche persone che per ragioni di salute si devono trasferire per un periodo a Milano. Visti i prezzi, 800 euro per un micro locale fuori dalla circonvallazione non è proprio fascia economica, nel medio periodo è probabile che questo modello non farà altro che dopare il mercato e rendere ancora più elitaria la frequentazione della città, senza fare nulla per contribuire a contrastare il problema dell'emergenza abitativa che il Covid ha creato. Sul fronte uffici, in questi mesi si è fatto un gran dibattere se e come lo smart working cambierà il mercato immobiliare. Ancora una volta i numeri sono contrastanti. I dati del Community Mobility Report di Google dicono che a settembre 2020, il momento in cui si sarebbe dovuti tornare alla normalità, gli uffici milanesi segnavano in media un meno 30% di presenze. Ma nonostante questo, nel corso dello scorso anno, Milano ha mantenuto il suo ruolo di leader nazionale anche sul fronte degli investimenti immobiliari legati a questo specifico settore. Ma dunque, lo smart working sta cambiando il mondo immobiliare, ma secondo me lo sta cambiando a livello qualitativo e non tanto quantitativo per la mole di investimenti che verrà attratta. E se volete facciamo anche qualche esempio. Secondo me il più interessante è quello di Novartis, multinazionale del pharma, che in piena pandemia decide di spostare un suo hub da 700 dipendenti dalla provincia di Milano a Garibaldi, al centro degli uffici di Milano. Sta cambiando però sì a livello qualitativo, perché intanto è un anno e mezzo che un sacco di persone lavorano da casa. Due, i trend, probabilmente una serie di riorganizzazioni aziendali, strutturali, pensate al mondo delle filiali bancarie. Era prima della pandemia che Unicredit e Intesa San Paolo annunciavano che nel corso dei prossimi 6-7 anni avrebbero chiuso X migliaia di filiali bancarie, quindi questo cambierà non tanto lo skyline di Milano, ma il piano terra di Milano. Ma poi in generale, perché non dobbiamo nemmeno più guardare soltanto alla funzionalità che ha un edificio, quando pensiamo all'ottica che ha il capitale. Quell'edificio è un asset class, è un investimento, è un posto dove mettere dei soldi in un momento in cui non si trovano opportunità particolarmente redditizie in giro per il mondo, se non si è in grado soprattutto di cercarle. Terzo, il cambiamento qualitativo è dato dal fatto che quasi tutte le grandi multinazionali del mondo, quelle che hanno headquarter nelle grandi città, tra cui Milano, ora puntano molto su questa vera o presunta sostenibilità degli edifici, e quindi c'è bisogno di realizzarli con modalità totalmente nuove dal punto di vista tecnico, tecnologico, della gestione degli spazi, dell'organizzazione interna. Questo avrà dei riflessi non soltanto sugli spazi, avrà dei riflessi sulle organizzazioni di lavoro. Quindi questo probabilmente cambierà, e nei prossimi anni credo che vedremo operazioni di questo tipo, ma non mi sentirei di dire per nessuna ragione che c'è un allentamento della massa di investimenti, anche perché gli orizzonti temporali sono orizzonti temporali molto più elevati di quelli che potrebbe avere la pandemia Covid. Pandemia, senza politiche che ne contrastino gli effetti, come tutte le crisi, produce una concentrazione di capitale nelle mani di pochi grandi soggetti. I grossi fondi immobiliari continuano a pianificare operazioni sul territorio, mentre i soggetti più piccoli ed economicamente fragili sono in difficoltà. Sul fronte commerciale, la crisi innescata dal lockdown ha penalizzato soprattutto il settore del commercio al dettaglio, a favore dell'e-commerce, la cui vertiginosa crescita, oltre a cambiare le nostre abitudini di acquisto, sta velocemente riorganizzando il tessuto commerciale della città e lanciando un nuovo trend immobiliare. Se voi sentite gli operatori immobiliari della Brianza o dell'Interland orientale di Milano, quasi tutti vi dicono che sono a caccia di piccoli magazzini, ex magazzini industriali, ex magazzini artigianali, da convertire in logistica per ovviamente far fronte alla maxi richiesta di e-commerce che c'è stata in questo periodo, un'intera generazione che addirittura in qualche modo è stata scolarizzata da questo punto di vista, perché prima non aveva mai avuto a che fare con gli acquisti online. Questo è interessante, cioè lo sviluppo della logistica è veramente uno degli aspetti più interessanti, ha delle criticità molto grosse e molto visibili. La prima è la distruzione del patrimonio naturale o agricolo in alcune zone, e questo è un punto. Il secondo punto è il traffico, che in pianura padana, diciamo, non è esattamente un problema di quart'ordine, e quindi la logistica vuol dire ovviamente camioncini, corrieri, migliaia di corrieri che transitano ogni giorno, e questo è un secondo punto. Il terzo punto è che non è vista benissimo da alcune amministrazioni locali, per ragioni anche valide. Primo, perché ci sono alcune amministrazioni che percepiscono i loro luoghi ancora come delle città ricche, figlie del boom economico italiano, del tessuto manifatturiero, del tessuto produttivo, delle piccole e medie imprese. E quarto ed ultimo punto è che la manodopera nella logistica, almeno negli ultimi 15 anni, è vero che lavora in condizioni pietose, ma è molto tendente, anche grazie all'attività di alcuni sindacati, a radicalizzarsi dal punto di vista del conflitto lavorativo e sociale, quindi a non accettare le condizioni di lavoro per come vengono imposte dall'alto, e questo dà adito a una serie di tensioni sociali. Andate a vedere che cosa succede a Piacenza e nei dintorni di Piacenza, anche a Milano, in dei luoghi che non vengono raccontati, come può essere San Giuliano, Peschiera, Borromeo. Questa cosa si vede visibilmente e quindi, come dire, è uno sviluppo che esiste, esisterà, ma ha tutti questi lati che vanno guardati. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche, puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao!